Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Quella che stiamo attraversando è certamente la crisi peggiore dal secondo dopoguerra, addirittura peggiore della grande crisi che sconvolse il mondo in seguito al crollo di Wall Street nel 1929. È una crisi che si è abbattuta violentemente su tutti i paesi. L'Europa ha reagito mettendo in campo, accanto alla sospensione del patto di stabilità, un ingente volume di risorse e ora si gioca il suo futuro. Come in altre fasi della sua storia, scrivono Paolo Guerrieri e Piercarlo Paduan nel libro edito dal Mulino dal titolo L'economia europea tra crisi e rilancio, il progresso di integrazione che prosegue da oltre 60 anni rappresenterà lo strumento fondamentale per rispondere alle sfide oggi presenti, ma il percorso è tutt'altro che scontato. Rischi di involuzione e di arretramento sono dietro l'angolo. Non è affatto detto che si stia marciando verso una maggiore integrazione. Ne parliamo questa sera con il professor Paduan, che è stato docente di economia alla Sapienza, vice segretario generale e capo economista dell'OCSE, direttore esecutivo italiano al Fondo Monetario Internazionale e ministro dell'economia nei governi Renzi e Gentiloni, attualmente parlamentare del Partito Democratico. Buonasera professor Paduan e benvenuto. Buonasera, grazie dell'occasione. Allora, ascoltiamo intanto questo passaggio tratto dall'introduzione al libro. Un'Europa più sovrana nel mondo e in grado di affermare un nuovo modello europeo di crescita sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia sociale sono i due obiettivi che dovrà cercare di raggiungere l'Unione Europea nei prossimi anni. Dovrà raggiungerli in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, caratterizzato dalla pandemia Covid-19, da una gravissima crisi economico-sociale e da un sistema internazionale a rischio di frantumazione a seguito della spinta di sovranismi e nazionalismi in ascesa un po' ovunque. La crisi pandemica pone due grandi sfide all'Europa. La prima è il rilancio della crescita come strada obbligata per un'efficace risposta alla crisi in atto e all'ascesa delle forze populiste ed euroscettiche, favorite, oltre che dalle ondate immigratorie, dal diffuso senso di disagio e insicurezza economica dell'ultimo decennio. La seconda sfida è relativa alla presenza dell'Europa nel mondo. Nel sistema economico mondiale del post-Covid sono prevedibili trasformazioni in termini sia di nuove tendenze, sia di rafforzamento di dinamiche già in atto, come lo scontro strategico tra Stati Uniti e Cina. Per evitare di finire relegata in condizioni di marginalità, l'Europa deve saper reagire e affermare nei prossimi anni un proprio ruolo più autonomo e sovrano a livello internazionale. Si tratta di cogliere l'opportunità del nuovo mondo del post-Covid per ridefinire gli obiettivi e gli strumenti della sua presenza a livello globale. Professor Paduan, nel libro riprende e aggiorna il contenuto di un analogo lavoro di 10 anni fa. Partiamo proprio da questo lungo, travagliato percorso di integrazione europea che voi ripercorrete nel libro. Perché a un certo punto quel percorso si è arrestato? Il percorso si è arrestato perché la crisi del 2008-2009 ha messo alla luce alcune fragilità del sistema economico e monetario europeo, del fatto che l'euro, che aveva caratterizzato una rottura fondamentale con il passato, era una macchina incompleta in cui il rischio di aumentare la fragilità finanziaria in molti paesi era elevato. Questo avviene più di 10 anni fa. 10 anni dopo c'è una crisi che, al contrario di quella precedente, non ha una ragione del comportamento specifico di qualche paese, ma ha una ragione del tutto esogena, a cui peraltro l'Europa deve far fronte con una risposta complessiva. La risposta che l'Europa ha dato alla crisi del 2008-2009 è stata quella di rafforzare le sue istituzioni, i fondi iniziali, il cammino verso un'unione bancaria, di introdurre regole fiscali che a volte si sono rivelate eccessivamente rigorose, eccessivamente rigide, ma che ha cercato di trovare in una visione comune europea la risposta a una crisi. Un analogo processo è quello che assistiamo con la crisi dovuta all'esplosione della pandemia. Anche in questo caso si dà una risposta europea ad un problema che non è di nessun paese in particolare, ma è complessivo, anzi globale, mettendo in discussione regole già esistenti, come per esempio con la sospensione del patto di stabilità o la tutela della concorrenza, sia pure in via temporanea, ma riconoscendo il fatto che l'Europa, per uscire da una crisi del genere, o lo fa nella sua interezza oppure è destinata a fallire, perché se non lo fa nella sua interezza ne deriverebbe un aumento degli squilibri, un aumento della distanza fra paesi forti e paesi meno forti e di conseguenza un danno complessivo all'Europa. Oggi siamo di fronte a una risposta europea veramente senza precedenti, ad una crisi senza precedenti. Ecco, a proposito di questa risposta, professor Padoan, parliamo appunto del Recovery Fund e delle sfide che si pongono al nostro paese, che è il maggiore beneficiario dei fondi europei, che peraltro arriveranno solo più o meno alla metà del prossimo anno. Ne riceveremo 209 miliardi. Ecco, quali sono a suo avviso le priorità che bisognerebbe privilegiare in questa fase, quanto a progetti e anche a riforme strutturali? Le priorità hanno la loro radice nel passato, perché come tutti sanno, purtroppo l'Italia per qualche decennio è rimasta fanalino di coda della crescita in Europa e non solo. Questa sua posizione di fanalino di coda indica chiaramente che alla radice di questa lentezza ci sono problemi di lungo termine, problemi strutturali che richiedono risposte strutturali, richiedono anche nuove iniziative, richiedono nuove istituzioni. Il Recovery Fund vuole essere una risposta che tiene assieme la necessità dei paesi, soprattutto quelle più deboli, di avere a disposizione risorse pubbliche, risorse europee, ma a condizione che queste risorse siano indirizzate per affrontare i problemi strutturali. Il Recovery Fund è quindi, diciamo, uno strumento per eccellenza votato alla ripresa della crescita lungo linee diverse dal passato, che come sappiamo sono essenzialmente lungo due o se vogliamo tre direttrici: la digitalizzazione dell'economia, la crescita verde e la sostenibilità anche sociale. Quindi l'Europa e i paesi europei sono chiamati a produrre idee, progetti e piani di uscita dalla crisi che facciano leva su questi tre principi. Da questo punto di vista la responsabilità italiana è particolarmente elevata, perché l'Italia è il paese che riceverà più risorse di tutti gli altri, ma allo stesso tempo dovrà mostrare di saperseli meritare, cioè di utilizzare queste risorse in modo efficace, cosa che spesso non è avvenuta in passato con le risorse pubbliche. Ecco, a proposito proprio del Recovery Fund, ricordiamo che per raggiungere quell'intesa dal 17 al 21 luglio il Consiglio europeo è stato molto travagliato e anche la decisione finale è stata sostanzialmente una soluzione di compromesso che vede le grandi famiglie in qualche modo confrontarsi con i paesi cosiddetti frugali, i paesi di Visegrad. Insomma, è probabile che nel prossimo futuro queste tensioni certamente non scompariranno dall'orizzonte. Dunque, a suo avviso, che Europa ci attende da qui ai prossimi anni, anche tenendo conto di queste spinte che arrivano da altre realtà che non sono propriamente dirette al rafforzamento dell'integrazione? La risposta ovvia è che ci attende un futuro che dipende dalla capacità dell'Europa di dare una soluzione ai suoi problemi interni, ma allo stesso tempo di dare una risposta alla domanda qual è il ruolo dell'Europa nella globalizzazione. Perché, come lei giustamente ricordava adesso, andiamo verso un sistema nel quale il multilateralismo e la cooperazione internazionale, che per molti anni hanno fornito la base per i rapporti economici internazionali e non solo, questa volta siamo di fronte a uno scenario che, a causa del comportamento di alcuni paesi, potrà essere più conflittuale che in passato, e quindi l'Europa rischia di trovarsi schiacciata fra grandi players che nel bene o nel male perseguono i loro interessi nazionali e li antepongono a un approccio multilaterale cooperativo del sistema globale. L'Europa invece deve avere un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e lo può fare rafforzandosi al suo interno. La forza dell'Europa globale verso l'esterno è direttamente proporzionale alla forza dell'Europa interna, domestica, quindi più integrazione dell'Europa significa più capacità di impatto dell'Europa a livello globale. Questa è la sfida che ci sta di fronte. È una sfida molto impegnativa, sì, che peraltro riguarda in prima persona il nostro paese. Come voi sottolineate nel libro molto opportunamente, anche il tema delle riforme va contestualizzato, perché c'è un ciclo delle riforme. Non è detto che gli effetti li si vedano subito, però insomma le riforme vanno fatte per aumentare anche la nostra produttività, che è stagnante da molto tempo. Quindi su questo credo che non ci siano dubbi, professor Padoan. Non ci sono dubbi che abbiamo bisogno di riforme, tenendo conto appunto che i tempi delle riforme non sono brevi, e anche per questa ragione è bene avere delle risorse che possono eventualmente essere impiegate per sostenere i costi di chi viene colpito più dalla riforma, perché le riforme, diciamo, danno risultati nel lungo termine, possono essere benefiche per grandi parti della popolazione, possono essere anche però tali da, diciamo, inasprire le condizioni di vita di altri segmenti della popolazione, certo. E di questo bisogna tener conto. Quindi le risorse servono ad aumentare la produttività, servono a migliorare la dotazione infrastrutturale del paese, il capitale, come si dice, materiale e immateriale, cioè la capacità per esempio di fare innovazione, quindi riformare il sistema scolastico, riformare la pubblica amministrazione, la giustizia civile, tutte quelle cose che servono a migliorare il modo in cui le imprese stanno sul mercato, ma servono anche a migliorare la vita di tutti i cittadini quotidianamente. Non dimentichiamoci di questo aspetto. Professore, grazie, grazie molte per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.